silenzio e poi ti guardo e poi sento lei. Te lo dico in un momento e poi che basta un abbraccio. Cerco le ragioni, cerco le emozioni di noi. Cerco tutto quello che tu hai fatto per me. E alla fine trovo le parole che non ti ho mai detto. Voglio dirti le cose che non ti ho mai detto. Per fare le cose che non ho mai fatto per te. Se tu lo vuoi, questo è un ricordo di noi, di noi. Mi fermo al mattino a guardare il tuo viso, perché il tuo sorriso cancella le rughe di questa vita. Senza tempo, ciò che abbiamo dentro lo portiamo nel cuore, bastano le parole. Dirti che sono queste le mie intenzioni. Easy music, I am within. Dopo ogni tempesta ha più valore le emozioni. Cercato nel tempo di non deluderti mai, ma non sempre ci sono riuscito, lo sai. Ho sbagliato, ci ho provato per essere come tu.